Collegati su Radio Alma, questa sera sarà con noi ospite in studio Isabel Lopez. Ciao Isabel. Ciao Monica. E in regia c'è ancora Carmen. Ciao Carmen. Ciao, buonasera. Allora, questa sera, nell'ultimo giorno del mese di maggio, la puntata è dedicata alle feste del mese di maggio. Facciamo un po' un ricordo delle feste del mese di maggio, tanto di maggio ce ne sono tanti di maggio, quindi poi quest'anno è stato super favoloso il tempo qua a Bruxelles, quindi insomma, cosa dire, feste del mese di maggio, e la serata si attende, come dire, una serata piena di fiori, piena di colori, diciamo così. Sì, possiamo, non so, che colori è il giorno di oggi? Che colore facciamo? Il colore dei fiori, facciamo un colore blu. Cielo. Blu, sì. Facciamo blu cielo, il cielo che illumina. O come la tua maglietta. Sì, infatti, quella della maglietta, giusto. Sì. E poi blu anche per altri motivi, vedremo poi anche i colori delle feste, blu come la festa, come la bandiera dell'Europa, blu come mese mariano, blu come insomma il blu. E allora niente, cosa dire, prima di iniziare la trasmissione parleremo appunto delle diverse feste del mese, direi proviamo a lanciare una canzone. Farà cosa lanciare di meglio che una festa di Raffaella Carrà, che in Spagna conoscete come... Fiesta! Come esploda, esploda, me esplo. Vai! Ed eccoci ritornati in studio, i colori dell'anima, ancora siete collegati su Radio Alma. Se ci volete telefonare, il telefono è lo 02345 2656. Se invece ci volete scrivere una mail, è colori.anima@gmail.com. E siamo ancora ritornati in studio, abbiamo Isabel Lopez. Ciao Isabel. Ciao Monica. Allora, inizierei subito con farti questa domanda. Allora, tu comunque lavori, sei legata alla Commissione, all'Europa, ecco. Quindi, come non iniziare con il conoscere qualcosa di più sulla festa dell'Europa, che si è celebrato il 9 maggio, quindi il 9 maggio di ogni anno si celebra la festa dell'Europa. Allora, cosa ci sai dire? Quando? Perché appunto? La festa dell'Europa è nata al vertice tenuto a Milano nel 1985, dove i capi di Stato e di Governo hanno deciso di festeggiare questa data come giornata dell'Europa. Ma perché? Perché? Tutto viene dal 9 maggio 1950, quando Robert Schuman, ministro francese degli affari esteri, ha fatto una dichiarazione che fa nascere l'Europa comunitaria. E cosa diceva questa dichiarazione? Sì, in effetti, le prime righe di questa dichiarazione danno un'idea dei propositi di pace e collaborazione dopo due guerre mondiali in Europa. Queste due righe più o meno sono: la pace mondiale non potrebbe essere salvaguardata senza iniziative creative all'altezza dei pericoli che ci minacciano. Mettendo in comune talune produzioni di base e istituendo una nuova alta autorità, le cui decisioni saranno vincolanti per la Francia, la Germania e i paesi che vi aderiranno. Saranno realizzate le prime fondamenta concrete di una federazione europea indispensabile alla salvaguardia della pace. Veniva così proposto di porre in essere un'istituzione europea sovranazionale cui affidare la gestione delle materie prime che all'epoca erano il presupposto di qualsiasi potenza militare, il carbone e l'acciaio. Certo, poi appunto il Belgio, anche qua il carbone, soprattutto quelle miniere, pure ai tempi. E ora? Ora i paesi chiamati a rinunciare con queste modalità alla sovranità puramente nazionale, sul nervo della guerra, uscivano da poco da un conflitto spaventoso. Certo. Che aveva seminato innumerevoli rovine materiali, ma soprattutto morali, odi, rancori, pregiudizi. Sì. Per comprendere l'impatto rivoluzionario del gesto, basterebbe immaginare oggi un'iniziativa analoga tra Israele e i palestinesi. E all'epoca l'ordine di grandezza era ben maggiore, le ferite più profonde. Certo, appunto, posso immaginare dopo essere uscito dal, insomma, dalle guerre, eccetera, c'era anche questo desiderio di unità. Tra l'altro, appunto, forse proprio in quel periodo che viene anche scelta la bandiera europea, ma mi sembra appunto abbia una storia molto, insomma, il disegno della bandiera europea, come sempre, è un percorso molto lungo e articolato. Di solito si è soliti attribuire il disegno vincente al disegnatore francese Arsène Aitz, che presentò comunque dozzine di bozzetti, il quale successivamente fornì una spiegazione della bandiera, tra l'altro anche in chiave biblica, facendo riferimento ad un'immagine della devozione alla Madonna propria del 12° capitolo dell'Apocalisse, dove si dice: nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Tra l'altro, appunto, informandomi un po' sull'argomento, ora vedevo che c'erano diversi tipi di bandiere e diceva questa con le 12 stelle, no? Perché una volta le stelle dovevano essere 15, poi sono state diminuite, insomma, poi aumentate, insomma, alla fine sono risultate 12 stelle. Tra l'altro diceva la corretta bandiera è con tutte le stelle, la punta delle stelle rivolta verso l'alto, quindi 12 stelle con la punta rivolta verso l'alto, non in cerchio. E tra l'altro, leggendo appunto Vittorio Messori, no? Vittorio Messori è uno scrittore italiano, un giornalista dice appunto, ha descritto la nascita dell'ispirazione di Aitz, dicendo che nel maggio del 49, proprio queste sue parole, nel maggio del 1949 fu istituito a Strasburgo il Consiglio d'Europa, organismo allora privo di poteri politici effettivi e incaricato solo di porre le basi per la costituzione di una federazione europea. Così, nell'atto della sua fondazione, l'anno dopo, quindi nel 1950, quel consiglio bandì un concorso di idee aperto a tutti gli artisti per una bandiera sulla futura Europa unita. Un allora giovane disegnatore alsaziano, Arsène Aitz, partecipò con un bozzetto dove 12 stelle bianche campeggiavano in un cerchio su uno sfondo azzurro. Come rivelò poi, l'idea non era casuale, devota alla Madonna recitava ogni giorno il rosario. Proprio quando seppe del concorso europeo e decise di partecipare, stava leggendo la storia di Santa Catherine Labourny e stimolato da quella lettura si era deciso a procurarsi per sé e per la moglie una medaglia miracolosa che sino allora non conosceva. Le stelle dunque del suo disegno vennero da lì e lì venivano direttamente dall'Apocalisse e dalla sua donna vestita di sole con la corona attorno al capo. Quanto all'azzurro, era il colore tradizionale della Vergine. Appunto, così scrive Vittorio Messori. Però in realtà di tale riferimento non c'è alcuna traccia nei documenti originali degli anni 50 e nella raccomandazione dell'Assemblea parlamentare approvata appunto nel 1955 e anche nella risoluzione approvata dal Consiglio dei Ministri a Parigi l'8 dicembre dello stesso anno. Se si va a spulciare un po' sul sito dell'Unione Europea, questa appunto fornisce un'interpretazione della bandiera nei seguenti termini. Dice: le 12 stelle in cerchio simboleggiano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa. Quindi, insomma, adesso diciamo, insomma, poi anche con i dibattici presenti, insomma, cattolici o non cattolici, magari quello che racconta Vittorio Messori è una leggenda, non si sa. Comunque, ecco, questo ci dà anche motivo per collegarci un po' a quello che sarà l'argomento successivo, un'altra festa che sarà appunto la festa del mese mariano, del mese di maggio. Direi però, prima di lanciarci su un altro argomento, di lanciare la canzone, una canzone di Fabrizio De André che si chiama Canzone del Maggio. Volevo infatti ricordare un'altra, non è proprio festa, però un evento di maggio, in particolare è riferimento al 13 maggio del 68. 13 maggio, che poi vedremo, è anche una data importante per i cattolici, ma nel 13 maggio del 68 in Francia avvenne appunto quella, insomma, diciamo così, proprio quel, fu proprio quella ribellione, ecco, degli studenti, eccetera, che poi si sparse un po' in tutta Europa, in Italia, Spagna, eccetera, e Fabrizio De André la descrive in questa canzone, tra l'altro, appunto, vediamo, passata da una francese, regalatagli, poi lui riesce a farne diventare, insomma, un capolavoro. Ed eccoci ancora ritornati in studio, I colori dell'anima. appunto se potete telefonarci è lo 02 345 26 56, una mail colori.anima@gmail.com. E quindi ritorniamo in studio con Isabel, che ci stava parlando prima dell'Europa. Poi abbiamo appena sentito la canzone di Fabrizio De André. Tra l'altro, appunto, dicevo, la canzone del maggio è tratta, sono due versioni, è liberamente tratta da un canto del maggio francese del 68 di Dominique Grange, il cui titolo è Chacun de vous est concerné. E poi insomma lui si è liberamente ispirato. Quindi vediamo un po', maggio, dunque Isa, per i cristiani è il mese per eccellenza dedicato a Maria. Ci sai dire perché? Come mai i cristiani hanno scelto questo mese, il significato anche di questo mese, e se ci sono delle date, una data particolare che ricorre? Sì, certo. Il mese di maggio è dedicato alla Madonna, perché si pensa che maggio, mese del rifiorire della natura, ci ricordi appunto l'idea dei fiori, e la Madonna certamente è il fiore più bello. Ah. La rosa mistica è casa di Dio. Ah, okay. Questo paragone che si fa. Okay. Dicono che maggio è il mese della promessa e della speranza. Anche se il tempo non è tanto buono, siamo consapevoli che l'estate è vicino. E siccome maggio è promessa d'estate, la Madonna per i cattolici è la promessa dell'arrivo del Salvatore, Gesù. Ah, ok. Ok. Quindi primavera associata alla Madonna, perché poi il sole dell'estate è il Cristo. Ok. Esatto. Ma appunto, e quando è nato il maggio mariano? Quando è nato il maggio mariano? Veramente non è possibile farlo con esattezza, ma la prima documentazione scritta della marianità di maggio compare in una composizione del re poeta Alfonso di Castiglia. Ah, spagnolo? Sì. Morto nel 1284, e anche in uno scritto del beato Susone, morto nel 1336. Quindi, e poi c'è una data importante anche, prima sì. Citavo il 13 di maggio del 68, però forse il 13 di maggio è anche una data importante per i cattolici, come mai? Sì, il 13 maggio 1917 la Madonna è apparsa a tre piccoli pastori, i fratelli Francesco e Giacinta Marto, e alla loro cugina Lucia dos Santos. Mentre vadavano al pascolo, sì, in località Covadeiria, vicino alla cittadina portoghese di Fatima. Ah, ok. Loro riferirono di aver visto scendere una nube e al suo diradarsi apparire la figura di una donna vestita di bianco con in mano un rosario, che identificheranno con la Madonna. Okay. Dopo questa prima apparizione, la donna avrebbe dato appuntamento ai bambini per il 13 del mese successivo. E così per altri 5 incontri, dal 13 maggio fino al 13 ottobre. Quindi nel 1930 la Chiesa Cattolica proclamò il carattere soprannaturale dell'apparizione e ne autorizzò il culto. Ok, quindi è uno degli eventi, diciamo, riconosciuti, ecco, della Chiesa Cattolica, di questa apparizione soprannaturale. Tra l'altro, volevo ritornare, tra poco appunto lanceremo un'altra canzone di Fabrizio De André, una canzone che ho scoperto appunto preparando la trasmissione, si chiama Ave Maria, ma è un'Ave Maria veramente molto quotidiana, particolare. Carmen, tu la conosci? No, io non conoscevo, quando te ho visto sentirla a casa quando l'ha scoperto, ma la canzone verdaderamente non è la prima volta. Possiamo mandarla in onda allora. Ed eccoci ancora ritornati sui Colori dell'Anima, siete collegati su Radio Alma e abbiamo appena sentito la canzone, ancora Fabrizio De André, Ave Maria, appunto bellissima, non so se vi è piaciuta. Isa, ti è piaciuta? Moltissimo. e quindi niente, Maria è ispirato nella storia e tanto appunto anche in Italia, poeti, scrittori, artisti, compositori. Abbiamo appunto appena sentito il pezzo di André, tratto dall'album Buona Novella, interamente dedicato nei suoi 10 brani alla vita di Maria. Ma si potrebbero citare brani di musica classica sacra, come l'Ave Maria, gli Stabat Mater, per esempio di Pergolesi, di Vivaldi, di Palestrina, di Rossini. In letteratura, come non ricordare Dante Alighieri, che infatti nel 33° canto del Paradiso è proprio una preghiera alla Vergine, veramente bella, no? Che San Bernardo mi sembra dedichi a San Bernardo, introduca appunto la Vergine con questa preghiera. E più recenti sicuramente il poeta Emil Maria Rilke o ancora Giovanni Testori con la sua bellissima opera drammaturgica, a volte criticata, ma in realtà insomma l'ho vista veramente in una pièce teatrale, Interrogatorio a Maria. In arte numerose sono le opere che hanno avuto Maria come protagonista. Tanto per citare alcune fra le più famose, per esempio la Pietà di Michelangelo, la Madonna della Seggiola di Raffaello o le Annunciazioni intime, più intime dei primitivi fiamminghi, fino direi alla recentissima opera dell'artista belga Jan Faber, che quest'anno è alla Biennale di Venezia, che aprirà appunto, li inaugurerà il 4 di giugno. Questa di Jan Faber mi sembra che abbia già fatto l'inaugurazione ufficiale. Jan Faber, artista appunto belga famosissimo, ha presentato un adattamento della Pietà di Michelangelo in cui si trova un teschio al posto del viso di Maria e l'artista stesso al posto ben abbigliato, ma morto in decomposizione al posto del Cristo. In decomposizione perché appunto come solito Jan Faber utilizza scarafaggi, scarabei, così, quindi si vede intorno a questo corpo questi animali che lo caratterizzano in realtà. E appunto lui è tra le braccia di Maria al posto del Cristo e in realtà è stato criticato pensando ci fosse un'opera, un'intenzione blasfema dietro, ma intervistandolo, stando a quanto l'artista stesso ha dichiarato, egli nega questo intento e afferma di come si tratti di un'opera performance che mette in scena i veri sentimenti di una madre che vuole sostituirsi al figlio morto. Quindi insomma, questa, perché poi in realtà la Pietà è un'immagine molto forte, molto conosciuta, un'icona molto conosciuta, quindi sicuramente prenderla come icona è anche un modo per farsi sentire, no? Di più dell'artista. Non so voi cosa ne pensate dell'arte contemporanea, comunque io con questa formazione, insomma, ho trovato un'opera scioccata e però bella, ecco. Non so, quindi non so se Isa tu in Spagna hai qualche artista o anche Carmen, so, qualche artista che ha ritratto Maria come soggetto e che ti può piacere e che ti piace. Sì, dire la verità, mi piace tantissimo un artista di Siviglia, non so se lo conosci, si chiama Bartolomé Esteban Murillo. Cioè, Murillo, certo. Ero nata Sì. al Prado, ero nata al Prado un paio di anni fa, l'avevo visto dal vero. Sì. Sì, è un pittore che ha fatto delle opere meravigliose su Maria. È una delle figure più importanti della pittura barocca spagnola. E le sue opere si trovano soprattutto in Spagna, più specificamente a Siviglia. È siviliano lui? Sì, Ma sì, dai, sì, non lo sì. sapevo. Sì, Cioè, io anche. sono con 2 siviliane in studio. Anche Anche Velázquez era di Siviglia. Velázquez lo so perché Carmen mi ha portato un presente. Questo è Natale. Questo Perché tu devi Natale, imparare lo spagnolo, sopra ecco. Velázquez. Quindi insomma forse anche Murillo. E quindi sì, le sue opere si trovano a Siviglia, Madrid, Bilbao, ma anche nel Louvre di Parigi o anche negli Stati Uniti con una sua opera che si chiama Maddalena Penitente. Mi piacciono tanto le sue opere su Maria perché rappresenta appunto la Madonna di una maniera dolce, delicata e in situazioni della vita quotidiana, come succede in quell'opera che si chiama Sacra Famiglia dell'Uccellino, Sì. che magari l'hai visto a A Madrid. Madrid, che rappresenta a Maria, Giuseppe e Gesù, quest'ultimo giocando con un piccolo Uccello. uccello. Famoso sono anche sue immacolate, di una dolcezza straordinaria. Ci sono anche altre. Qual è quella che ti piace di più? Un'opera che. Sì, quella di. Sai, si trova a Siviglia. Ma cioè, che veramente. Ma sì, da piccole tutti andiamo al museo. Giusto. De Bellas Artes di Siviglia. Lì si trova un'opera. È piccola. Pensi che magari è grande, però è una. È un quadro piccolo, ma è veramente meraviglioso. Cioè, la Madonna e Gesù, però hanno uno sguardo veramente che ti fa... Umano. Sì. Umano. Tu la conosci, Carmen? Chiama... Sì, figurati. È bellissima, ma infatti a Siviglia c'è tutta come una sala piena di Madonna di Murillo. Di Murillo. Incredibile. Ma veramente questa è... La Madonna della... Sirviglietta della Sirviglietta, sì. La Sirviglietta. Sì, ci sono due versioni del perché si chiama così. Che la prima è, dicono che Murillo ha preso del convento dei Cappuccini una Sirviglietta e tra qualche giorno l'ho inviata con la Madonna dipinta. Oppure una seconda versione che dice che è stato un fragile quello che ha detto Murillo di dipingere una Madonna, ma come non aveva soldi per comprare una tavola, gli ha dato una servilletta. Ma servilletta sarebbe una servietta? Una serviette? Una serviette? Sì. Ah, una servietta allora, una... sì, sì. Sì. Una... come si dice? Una asciuga... sì. Un asciugapiatti? Un asciugapiatti o un asciuga... un tovagliolo? Un tovagliolo. Wow, un tovagliolo, sì. Ah, ecco. Sì, sì, sì. Che sarà? Bello. Moni, prima di che tu finisci con questo, perché dimmi, mi ho ricordato, sai quello che hai spiegato tutto della pietà, della nuova pietà? Sì, di Jan Fabre. Sai che da, tra, non so, 5 anni avanti, 7 anni avanti, si è fatto un film a Siviglia, sì? Che succedeva tutto verso la Semana Santa, e una delle immagini più forti era perché rappresentava una pietà con un uomo morto davvero, che avevano assassinato, vero? Sì, era una delle immagini più forti. Io non so se tu lo ricordi. No. Nessuno conosce nessuno è il titolo tradotto. E chi era l'artista? Era un artista o era, era un pietà popolare? Un film. Era una delle immagini, perché era, aveva un signore, no, che c'era un signore tutta la Semana Santa precedeva a tutto il mondo. E uno di quello, in un passo da Siviglia, faceva la pietà. Era troppo forte, l'aveva ricordato dopo. Era un'immagine fuori. Quindi effettivamente la pietà è utilizzata anche proprio come, come icona per dire qualcos'altro, però in modo forte. Ma che alla fine la pietà sarebbe effettivamente il dolore di una madre nei riguardi di un figlio morto. Quindi sicuramente... Bene, allora, discorsi interessanti questa sera. Però io direi, ora potremmo fare il collegamento, Maria, appunto, il discorso di una madre per un figlio morto, però maggio è anche la festa della mamma. Figurati, di tutte le mamme del mondo. Di tutte le mamme del mondo. E allora come non cantare la canzone di Giorgio Consolini, Sono tutte belle le mamme del mondo. Abbiamo qualcuno in studio, penso. C'è una telefonata? No? Sì, ma si è aperto. Sai chi era? Chi era? Era la nostra collega. Era la nostra Rosanna. Salutiamo Rosanna, allora. Grazie della telefonata. C'è un'altra telefonata. È lei. Insomma, quindi la mamma, le mamme più belle del mondo. E cosa ci sai dire? Da dove deriva questa festa? Viene festeggiata ovunque nella stessa data? Per esempio, quest'anno mi sono dimenticata, confondendomi la data da quella del Belgio con quella dell'Italia, lasciamo stare. Cosa ci sai dire? Sì, la festa della mamma costituisce una festa molto antica, legata al culto delle divinità, della fertilità, degli antichi popoli politeisti, che veniva celebrato proprio nel periodo dell'anno in cui il passaggio della natura dal freddo e statico inverno al pieno dell'estate, dei profumi e dei colori, e della prosperità nelle antiche civiltà contadine. Certo, era più evidente. Era più evidente, sì, esatto. E con l'andare del tempo, questa festività dal tono religioso si è evoluta in una festa commerciale, talvolta anche in sagra. E quindi sì, è questa festa si è iniziata a celebrare, si celebra ovunque, ma in ogni paese anche c'è una data diversa, tipo negli Stati Uniti nel maggio, scusa. Però è giusto che negli Stati Uniti, sì, cosa succede? Come mai negli Stati Uniti è iniziata questa festa? Sì, nel maggio 1870 Julia Ward Howe, attivista pacifista e abolizionista della schiavitù, propose di fatto l'istituzione del Mother's Day, giornata della madre, come momento di riflessione contro la guerra. Fu ufficializzata nel 1914 dal presidente Woodrow Wilson con la delibera del Congresso di festeggiarla la seconda domenica di maggio, appunto, come espressione pubblica di amore e gratitudine per le madri e speranza per la pace. La donna come simbolo di pace, insomma. Sì. Sì, venivamo parlavamo prima della festa dell'Europa. Dell'Europa. Pace, insomma, c'è questo desiderio di pace. Maggio, maggio pace. Della pace, sì. Quindi la festa si è diffusa in molti paesi del mondo, ma cambiano le date in cui è festeggiata. In Italia fu celebrata per la prima volta il 12 maggio 1957 da Donatello Migliosi ad Assisi, nel piccolo borgo di Tor di Betto, di cui era parroco. Migliosi la celebrò la seconda domenica di maggio. In Belgio invece si festeggia anche la seconda domenica di maggio, ma per esempio in Spagna si festeggia la prima domenica di maggio e in Francia l'ultima domenica, a meno che non coincida con la Pentecoste. Con la Pentecoste, in tal caso è la prima di giugno. Ah, ok. Infatti io mi sono confusa quest'anno, giustamente penso con la Spagna. È tutto il primo, la prima domenica. Domenica di maggio e. Ecco, mia mamma. Sì, infatti. Per noi. Insomma, interessante. Quindi, insomma, la festa della mamma, voi avete fatto qualcosa alla mamma? Vi siete ricordati almeno? Io no, Moni. E l'ho detto dopo. Mia mamma dopo mi ha detto: ma non devi farmi la festa, non devi farmi gli auguri oggi. Ops. Mia mamma mi dice che è troppo commerciale, quindi. Quindi i bacetti da lontano. Sì, sì, esatto, non c'è. Oh, mia mamma l'adora. Se non la chiamo, mi ammazza. Figurati. Però appunto io volevo dire, comunque non ci sono soltanto appunto le feste, c'è cioè la festa della mamma, la festa anche dei fiori. Prima hai detto la Madonna associata appunto ai fiori, la mamma, forse il regalo, un regalo che molti hanno fatto alla mamma, magari un mazzo di fiori, ma è maggio, primavera, festa della pace, la festa anche dei fiori. E da che cosa deriva? Un po' forse anche da cicli contadini alla fine. In questo periodo dell'anno infatti i romani salutavano l'arrivo della primavera con riti religiosi e feste popolari in onore delle divinità della terra. Appunto, sempre legate, veramente molto concrete le feste, quindi le festività romane nel mese di maggio erano destinate all'accoglienza della primavera e soprattutto ai fiori, in particolare alle rose, appunto che diciamo maggio, rosa mistica, effettivamente. I romani amavano molto questo fiore, usato non solo come oggetto di ornamento, ma anche nella vita quotidiana. Facevano per esempio delle marmellate di rose. L'avete mai assaggiata? Non ti credo. Sì, marmellate di rose. Moni, questo tu devi provarlo a farle. Ecco, sì. Tu sai che tu fai la cucina troppo bene. Sì. Tu devi provarli a fare questo. Taglierò le rose del vicino. vini aromatizzati alla rosa, mai assaggiato questo. Petali di rose sparsi nei banchetti e nelle case. Io mi ricordo quando ero piccola, nel mio villaggio di 800 abitanti, facevamo queste processioni, mi ricordo forse avevo avuto 4-5 anni, distribuivamo petali, facevamo le processioni e spargevamo petali di rosa, i bambini davanti avevano il compito di spargere petali di rosa, mi ricordo. Cioè questo, sì, ma anche noi, io penso, perché io non so tu Isabel, ma io mi ricordo che quando io ero piccola, tutti i giorni di maggio, le dovevamo portarle una fiore alla Madonna. Ah, della sì? Scuola. Mm-mm. Sì, sì. Quindi la rosa. Per questo, allora, dedicavano una settimana intera al risveglio della natura con le floraglie. in onore di Flora, la dea dei fiori. Queste feste si sono tramandate nei secoli ed ancora oggi in alcuni paesi europei si tengono feste legate ai fiori. Dopo ci parlerai un po' di questo, Isabel. In Olanda, per esempio, si regalano i tulipani, in Francia i mughetti, in Austria cani, gatti e cavalli, questa non l'avevo mai sentita, vengono ornati con i narcisi. Bello! Sì, in Germania durante il mese di maggio era diffusa l'usanza secondo la quale i ragazzi appendevano sulle porte di casa o sulle finestre delle ragazze fiori e ramoscelli che avevano significati ben precisi. Stiamo attenti se abbiamo un amico tedesco. Un piccolo abete bianco o un rametto verde esprimevano amore e simpatia, mentre un ramoscello di ciliegio voleva dire che la ragazza in questione era una pettegola. Sì, un ramo di biancospino stava a significare che questa ragazza voleva calappiare un uomo a tutti i costi. Cioè, guarda, i messaggi, altro che messaggini col cellulare, qua si mettevano fuori tutti... Vabbè, insomma, comunque ci sono anche altri tipi di feste più quotidiane, più insomma tipiche, anche qua in Belgio, per esempio. Isa, tu mi sembra fossi andata in qualche festa. Dove? Sì, sì, qui in Belgio sì, posso dire, sono stata nel Château de Grand Bigard. Ah, ecco. Dove c'è una esibizione internazionale di fiori che quest'anno è stato dall'8 aprile all'8 maggio. Ok. È un parco molto vicino a Bruxelles e molto conveniente per arrivare. Il parco che intorno al castello ha 14 ettari, con più di 1 milione di bulbi, che sono stati piantati manualmente. Ci sono 500 varietà di fiori con 300 varietà di tulipani. Tantissime. Sì, è molto bello, sì. Ne vale la pena. Tutti? Tutti, immagino, tutti piantati a mano. Sì. Mamma mia. Molto bello, sì. Ti è piaciuto? Ne vale la pena? Sì. Assolutamente, sì. Io penso, quando tu sei andata lì, io ero in Italia ed ero andata a visitare a Varese, abito in provincia di Varese, Villa Taranto, che è una villa sul Lago Maggiore, bellissima, cioè piena, appunto, c'erano tulipani, ma di tutti i tipi, veramente di tutti i tipi, colorati, mai visti proprio. E sento, con questi c'erano appunto giochi d'acqua, c'erano percorsi, cioè, insomma, più che giochi d'acqua c'erano serre, c'erano montagnette, ponti, veramente bellissimo. E tra l'altro, vabbè, bisogna anche trovare la giornata giusta, perché i fiori si devono vedere con il sole, poi di fronte c'era il Lago Maggiore, bellissimo, la montagna. Quindi, ecco, bello. Però, non so, se hai dato da qualche informazione, se magari qualcuno l'anno prossimo sì, si vuole andarci. Più informazioni si può trovare sul sito www.floralia-bruxelles-brussels in inglese.be. Okay. Si chiama Le Château de Grand Bigard. Ok. E poi a Bruxelles c'è un altro evento, no? Sì, che è anche molto importante per i belgi. Certo. È l'apertura al pubblico ogni anno in primavera delle Serre Royale de Laeken. Ok. Quest'anno sono state aperte dalle 15 aprile al 8 maggio, sempre in questo periodo. Le Serre Royale sono state costruite sotto iniziativa del re Leopoldo II nell'anno 1873 per l'architetto Alphonse Ballat. Sì. Sono costruite in metallo e vetro, un'innovazione spettacolare per l'epoca. Albergano una collezione importante di fiori e piante specialmente esotiche. Queste Serre Royale sono molto importanti per i belgi, perché quando la casa del re è aperta per il pubblico, e quindi possono andare a vedere. Tra l'altro, Alphonse Ballat mi sembra anche l'architetto che ha costruito i giardini botanici di Bruxelles, insomma, queste costruzioni in ferro. E insomma, dopo tutto questo lungo intervento su questa festa dei fiori, direi, come non lanciare una bellissima canzone, bellissima, che mi piace tantissimo, di Fiori di Maggio, Fabio Concato. Ed eccoci ancora ritornati sui Colori dell'Anima, Radio Alma. Dunque, stiamo ancora sentendo un po' la canzone. Adesso, eccola ancora. Infatti, a dire, e i fiori, fiori va anche con musica, come non ricordare il Maggio Fiorentino, prestigiosa manifestazione artistica organizzata annualmente a Firenze con opere liriche, concerti, balletti, spettacoli di prosa, fondata nel 1933 su iniziativa del mecenate Luigi Ridolfi Vai da Verezzano e del maestro Vittorio Gui, col successivo apporto della gerarca fascista Alessandro Pavolini, successore di Ridolfi nel ruolo di federale di Firenze. Solitamente appunto la manifestazione ha luogo da fine aprile a inizio luglio, quindi siete ancora in tempo, se andate in vacanza, se andate per un weekend, assolutamente da non perdere. E insomma, allora, dopo tutte queste feste, insomma, tutti i giorni lavoriamo. Che lavoro tan pesante questo di fare le feste. Veramente? Allora, come non festeggiare il lavoro? Allora, concludiamo con la festa del lavoro, che è il primo giorno di maggio. Come mai si fa festa? Si è deciso di far festa, una festa per il lavoro. Mm-hmm. Isabel. Sì, la festa del lavoro o festa dei lavoratori è una festività mondiale celebrata il primo maggio di ogni anno, che intende ricordare l'impegno del movimento sindacale e i traguardi raggiunti in campo economico e sociale dai lavoratori. Ok, una festa premio. Più precisamente con essa si intendono ricordare le battaglie operaie volte alla conquista di un diritto ben preciso, l'orario di lavoro quotidiano fissato in 8 ore. Certo. Tali battaglie portarono alla promulgazione di una legge che fu approvata nel 1867 nell'Illinois, negli Stati Uniti. La prima internazionale richiese poi che legislazioni simili fossero introdotte anche in Europa. Certo. E quindi l'origine della festa risale, io mi ricordavo risalesse una manifestazione, se non ricordo. Sì, ad una manifestazione organizzata negli Stati Uniti dai Cavalieri del Lavoro, Knights of Labor, associazione fondata nel 1869, uh-huh, a New York, il 5 settembre 1882. Molto antica, insomma, comunque ha parecchi, insomma, più di 100 anni. Sì, sì. 2 anni dopo, nel 1884, in un'analoga manifestazione, i Cavalieri del Lavoro approvarono una risoluzione affinché l'evento avesse una cadenza annuale. Altre organizzazioni sindacali affiliate all'Internazionale dei Lavoratori, vicine ai movimenti socialisti e anarchici, suggerirono come data della festività il 1 maggio. Ma a far cadere definitivamente la scelta su questa data furono i gravi incidenti accaduti nei primi giorni di maggio del 1886 a Chicago. Ecco, mi ricordavo che c'era stato un incidente, forse, sì. Sì, è conosciuti come rivolta di Haymarket. Questi fatti ebbero il loro culmine il 4 maggio, quando la polizia sparò sui manifestanti provocando numerose vittime. L'allora presidente Grover Cleveland ritenne che la festa del 1 maggio avrebbe potuto costituire un'opportunità per commemorare questo episodio. Successivamente, temendo che la commemorazione potesse risultare troppo a favore del nascente socialismo, stornò l'oggetto della festività sull'antica organizzazione dei Cavalieri del Lavoro. La data del 1 maggio fu adottata in Canada nel 1894, sebbene il concetto di festa del lavoro sia in questo caso riferito a precedenti marce di lavoratori tenute a Toronto e Ottawa nel 1872. E scusami, in Europa? Sì, hai parlato Europa, spesso degli USA, così in Europa? La festività del 1 maggio fu ufficializzata dai delegati socialisti della Seconda Internazionale riuniti a Parigi nel 1889 e ratificata in Italia 2 anni dopo. Ok, mamma mia, che lungo lavoro. Per fare una festa del lavoro, che lungo lavoro. In Italia la festività fu soppressa durante il ventennio fascista, che preferì festeggiare un'autarchica festa del lavoro italiano il 21 aprile in coincidenza con il Natale, con il Natale di Roma. Mm-hmm. Ma fu ripristinata subito dopo la fine del conflitto mondiale nel 1945. Poi, come continuò in Italia? Nel 1947 la ricorrenza venne funestata a Portella della Ginestra, quando la banda di Salvatore Giuliano sparò su un corteo di circa 2000 lavoratori in festa, uccidendone 11 e ferendone una cinquantina. Proprio festa del lavoro, insomma. Dall'anno 1990 i sindacati italiani CGIL, CISL e UIL organizzano annualmente a Roma un concerto per celebrare il primo maggio, a cui partecipano ogni anno centinaia di migliaia di persone. Sì. Insomma, quindi abbiamo fatto un po', come si dice in francese, una fête tour. Abbiamo sì, che le feste. Tutte feste, feste, torniamo a casa, facciamo festa. Figurati, tutte le notti, tu lo sai. Ecco. E cosa dire altro? Tra l'altro, insomma, tra poco lanceremo una canzone di Adriano Celentano che dice: chi non lavora non fa l'amore, quindi alla fine bisogna lavorare. Sì. Se non lavori non ti puoi, non puoi andare da festa. Non puoi fare la festa, non esatto, esatto. Insomma, quindi siamo giunti quasi al termine di questa puntata. Speriamo che avete fatto festa con noi, avete scoperto qualcosa in più. E allora ringrazierei io Isabel per la sua presenza. No, Moni, io devo ringraziarti a te, grazie mille per l'invito. Spero ti sia divertita. Ti è piaciuto? Se vuoi ritornare tu puoi. Ah sì, eh? Per parlare del volentieri, tuo lavoro. Volentieri. Poi, collaborare con voi è sempre un piacere. Bene, bene, anche per noi. Carmen, tutto bene? Ci vediamo la prossima volta noi due? Sì, che infatti la prossima volta è... Settimana prossima. Due volte di seguito avete Monica e Carmen, ecco. E noi, niente, appunto, diamo appuntamento settimana prossima. Che parleremo, penso, altre volte dell'Italia. Esatto, parleremo un'altra volta dei 150 anni d'Italia. Ci sarà una terza puntata bis. Perché sì, appunto a grande richiesta di cosa, sì. Sì, a grande richiesta davvero c'era tantissime cose da dire, quindi faremo una terza bis ai 150 anni e quindi niente, non ci resta altro che augurarvi una buona serata, una buona notte e ancora vi lasciamo sulle note della canzone di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore.